non ci siamo, metto lì. Eh? Metto lì. Allora. Che si dice? Guarda. Ora mi ho sdraiato sul letto. Non ti vuole accomodare così. Ma cosa? Col cuscino. È proprio visto che ti acchiappa. Allora. Poi. Dopo domani c'ho sto cacchio di visita, speriamo che mi dice che sono malato sul selvaggio. Ma anche tu non avevi fatto il coso come Emanuele. E io? Però non ho capito, a me pare che non mi ha bucato l'idea, mi ha aggiunto anche tre, boh. L'ascolto da Nivà. Sono io, boh. Cazzo che... Io sto con il cammino, cazzo mi fa male. Lo spasso con le natiche fino a metà coscia dietro. Ma mi tiro lì, mi forte, cazzo, mi devo un po' forza a posare, se no è un casino. La mossatalgia, così. Sì, ma sempre. Allora, così che mi ha operato. Praticamente avvolgeva il nervo sciatico, bugata gli sensi, dove non è più, cazzo mi è giù di prima. Infatti che mi ha fatto, ho detto, è questo il tubo da quando ce l'hai, da quando mi avete mollato dall'ospedale. E si chiede di dormire che dà? Mi sa di sì, ci vado proprio con il tiro, non ha fatto nulla. E mi devi sparare un modo che io non ho più dolore. Vabbè, intanto anche se fai le punture ti passa per un po'. A volte la puntura invece risolve per sempre, a volte però ti fa stare bene per 6 mesi, un anno, 2 anni anche. Sì, ma allora io ne ho 3, due piccole dice che non danno fastidio, ma se dà risonanza magnifica, poi la grossa si era anche un po' calcificata, hanno chiuso il canale, quello con l'altra, cioè come mi ha spiegato, togliamo questa. E non avevo più dolore, cazzo me l'ha bucato lì, se me ne aggiungo, ma adesso. Sì, che vogliono, cosa vogliono, le lastre? No, l'astra è zero, risonanza magnetica, loro vanno avanti con quella che si vede tutto. Si chiama di qua, risonanza. Allora, tu vai. Allora, io so se l'ho fatta a Porta Mona, che non lo sapevo che io sono esente, e l'ho pagato a 150 euro, però ci stai 40 minuti. Insomma, diviene una sincope, perché sai come è fatta la risonanza magnetica. Lì me l'hanno fatta rifare 10 minuti. Beh, la so, più bravi, più avanzati, erano macchinari molto più sofisticati di qua, capito? Cazzo, siamo sempre in Italia, e siamo sempre in Italia. Bubu, io ti capirei se mi dici, quando sono andato all'estero i macchinari sono più avanzati, ma boh, sempre da lì mi vengono i macchinari. Poi siamo a Lugo, vicino alla Ravenna, l'hotel è privato, enorme, e hanno dei macchinari che io non conosco mai visto. Boh, bravi, bravi veramente. E invece sono i luminari, mi pare che a casa arrugginito, Cosa? Mi sembra che c'era Chiodo Arrugginito che stava chiamando. Avanti, chi c'è? Io ci ho corretto, mi sa che è così. No, io ho zero. Mi è sembrato. Ehi, chi è? Chi è? Chi io? E dove sei? Cacca, ma un altro si è comparato. Venga. Manuele. No, sto usando il portatile, non ce l'ho, almeno non arriva, ragazzi. Non arrivi da Torino, Manuele. Ma perché non stai usando l'antenna esterna? La boomera. Ma la boomera di poco. Tu qua di 9.10 o Torino. Più vicino a te. Io come carico lui. Prova. 1, 2, 3, prova. 9.20. Ma lui è solo negativo per lui. È un punto che per me è negativo. Ma gli ho detto mettiamo la boomerang in quel terrazzo lì fuori, una bella verticalina. Non me la vuoi mettere, gli andavo a dare una boomerang bella, grande, niente, non è comune, così esce una cosa, mi dà fastidio, aspetta, devo fare lui, un attimo di quel X che smonto la batteria, dove c'è la batteria quadrata, le darme praticamente, si è fatto un po' di ossido, e a volte mi fa questi piccoli difetti, questi nini, e forse ecco. Beh, me la pulisco poi rientro. Sì, si sente qualche... come un'interferenza. Ma no, non arrivi da Torino. C'è sempre Magnendi, c'è Magnendi. Sa che c'è a U o dritta? Ah, andiamo qua. Non se passato manco già per la tira. Andiamo a vedere. Ok. Va bene. Avanti. Ciao Nico. 9 Radio 5. Ah, va bene, va bene. Figurati. Infatti io te le ho preparate. Te le ho preparate. Che pacchetta. Si sta mandando la batteria tu Nico. Dal microfono. Carrozzo, mi ha buttato qua l'altro ma di scari. Hola, hola, com'è adesso? L'ho fatto un attimino, l'ho fatto però tu. Vabbè, sono vicino ero, Com'è lui? Adesso va bene. Peccato che mi adesso lo sta facendo. Non è che di innesco il trecco cos'è? Cos'è? Sì. È il volume del carne che vedi? E ci un po' di quel prodotto come ciò, ma è allora che casino è questo? Ho il carne troppo attaccato al baracchino e la tornata che c'è entra di innesco e fa casino. Sì, sì, sì, però fa una massa. Sì. Lascia a metterlo distante a vedere così. Così non lo fa, lo vedi? No, così no. Se non lo vedi stare, tutta l'altra parte. Però magari non basta una farne una massa, amico. Perché il tradimento con la tua formata le baracchino, Sì, se lo metti vicino. Non c'è altro posto, il cacchio lo metto. Ma così va bene, ragazzi. Alla grande. Un bel microfono, Io lo metto qua sopra, se riesco a fare qualcosa, si è casino, è un motore sensibile, lo fa lo stesso, adesso, lo devo tenere qua, così va bene, insomma è troppo distante, una mesolina ne devo fare, Addirittura? Sì, è troppo forte per essere vicino al baracchino, è da rimesso. Troppo vicino al cavolo. Vuole distante. Oppure se lo metto un po' in basso. Così non lo fa, vero? No. Sì, allora lo sportello devo aprire, ci sono le marci e lo metto là dentro. Vabbè, penso che devo tenere a sporto l'aperto per il bel mutri che ho fatto. Cinque, fai domani a salsiccia. E ci avevi così? L'ho messo coricato dentro, non lo fa, vero? No. Cazzo, come se lo lascio così? Cazzo, ma un tarme, coricato, molto acqua, Ma non capito di butta. Cicolino, fuori dell'antenna. Già si comincia a mettere una boomerang, vedrai. Ala. Che signor Luca, sa cosa di boomerang fa? Si prende 4-5 chilometri di incapo e poi l'antenna la fuma, lontano. Ho detto, controlliamo se si può salire sul tetto, ci sarà una botola, qualcosa, se si può mettere lì, ma una cosa piccola, dove c'è il coso dell'ascensore per metterci, e allora anche una numera va bene, dai, ha fatto difficile, ragazzi. Bello, l'altra porta la vette, calma, bello, io vado la vicino, lui, per quella. Cosa ha dato lì? Dato come vuoi la città? Adesso guardo venerdì, vediamo un po', perché bisogna tenerle sott'occhio. A chi senza muggine? No, non asciugarsi troppo. Poi è troppo dolce, deve essere. Infatti. E poi se si sciopero non ne vogliono più. Emanuele non c'è venuto a prendersela. No, sono diventata una buccia ancora. Ha detto che viene domani mattina. Oh, io tutta la gira. Capo già ti ho detto che. Ma ormai te lo sta buccando io. Stavo rimbigliando i buccini. Ma io non sto prendendo niente. Sino ho finito io di prendere il cortisone, come ti mi ha detto che sono mal operato. Per 10 giorni l'ho fatto, però niente. Sta addirittura il cortisone non ti ha fatto niente. Ma a parte niente l'ha fatto milligrammi di piccola. Anche perché col diabete gli usai. Mi salita la glicemia, sì, non spaventarmi, che lo so dall'ospedale. Quindi fatti finte, muore meglio più. Prego. Ha detto Manuele che ti devono fare il tampone. Sì, allora culo. Ma tu Manuele perché non lo senti neanche? Poco a poco ti sente tu. Meno male, ma lui il tampone è il corso. Insomma, io entro nuovo in frequenza e poi sento dire certe cose che magari mai che... Oh, ma ascolta, ma vuoi portarti le nocciole FM, Emanuele? Ah, magari perché ci spostavamo di canale in FM. Quindi, se sicuramente vi sentivate. Penso di sì. Hai capito cosa ha detto lui? In PMR? Già se ti sente in PMR. Sì, il PMR lo ascolto io. Ma stanno in PMR. Ah, io PMR. Ma noi, PMR, l'ho acceso. Stai per me. Dirci c'è qualcuno? Sei avanti? Sì, radio 5, Roberto Quadrato sono, ciao Franco. Mi ha copiato? No, ti ascolto bene, chi è l'altro che parla? Da dove sta parlando? Non lo sento io. No, no, già è buona, no, non capisco l'amico, lo sento basso, da dove sta modulando? Lui mi ascolta a me? È in mezzo al QRM, io lo sento basso. Sì, no, va benissimo, c'ho anche io la 1-208, un ottimo microfono. No, volevo dire, se mi ascoltava, cosa ti ha detto l'amico? Io lo sento, c'ho il QRM altissimo, sento che parla, però non capisco quello che dice. Probabilmente allora è così, perché io li ascolto da Uzzeri, anche Patata, Buduzò, ascolto, ma sanno che non è, probabilmente è dall'altra parte con un'antenna poco performante, dai. Se volete continuare, se no facevamo una prova in banda laterale a vedere. No, ti ascolto perfettamente, Radio 5 è ottima, pulita, non hai nessun difetto. E io non c'è problema, non ti preoccupare. Ok, già sistemeremo qualcosa per farmi sentire, anche per ascoltare. Vediamo se sul 10 c'è qualcuno che vuole entrare qua in zona. Avanti sul 10 che vuole entrare. Avanti, ti vuole entrare. Ciao, vabbè. Come va? Io ho acceso adesso, c'era uranio di coso, di usilo, poi con questo diossidi, però c'è il QRM troppo alto, sei tipo che parla ma non riuscivo a tirarlo fuori. Ok, no, qui non arriva. Consiglieri, qui non arriva. Cioè, io sono nella valle, dunque non è possibile. E vabbè, pazienza, non è così importante, vai a Ausili. Importante faccio ascoltare qua, in zona nostra, poi. Se ci arrivi, vabbè, c'è la pazienza. È inutile poi arrivare e poi lui non riesce a farci ascoltare. Infatti, no, ma poi non è, a me non è che me ne frega più di tanto di arrivare così lontano. Non è un problema. Quanto sono? Sì, 50 km più o meno. 55 all'incirca, là. Poi da qui saranno forse anche di più, non lo so. Comunque, non mi interessa più di tanto. Se ci arrivo, ci arrivo. Se non ci arrivo, non fa niente. Lui non arriva. Non ci arrivo nemmeno io, comunque. Buonasera, buonasera. Alla fine è fatto lo bello, manco ti arrivi. Cosa hai detto qua? Per la fine è fatto che non arrivi manco Alzieri, buonasera. Non so, ma c'ha problemi lui, io lo sentivo basso, però c'ho il QRM alto, ma io ti presente che sfocco un po' a potenza, non è metto, già lo sai, non mi interessa sollevare. Sempre gli stessi discorsi fatti, ma cosa c'entra la potenza? Si arriva a Santiago 9 qua, ma uno da Alzieri, sia a 200 metri da me, non lo senti. No, lo sento disturbato, c'ho il QRM a 7, infatti lui era intorno a quel valore lì e però era disturbato, mi copriva, lo sentivo parlare però non capivo quello che diceva. Non è una potenza che tu arrivi o non arrivi e che non lo ricevi, qua arrivo a Santiago 9, io sto andando con Torvati, quindi potenza non venne ragazzi, non c'è niente da mettere, comunque, vabbè, diversità di zona sicuramente. Ciao Giulio, buonasera. Ciao Claudio. Beh certo, la zona è importantissima. Se uno non ha la posizione buona per arrivare in certi posti è chiaro che non c'è niente da fare. No, ma stavo dicendo che non è poi così importante arrivare a Ausili. Interessante che ci sentiamo qui nel circondario di Sassari, per cui quanti chilometri sono da Sassari a Ausili? 50, 55, più o meno quella distanza, no? Sono di più, sono una settantina. Allora cosa? Io non ci potrò mai arrivare. Vabbè, comunque, non è così che mi interessa, non mi interessa proprio. Andare, vabbè, Robe, tu hai detto Santiago 7 di coso, di QRM. Boh, io Santiago 4, 3, 4, dai, di QRM. Quello è l'effetto della mantova che porta molto QRM. Tutto quando sei in zona alta, così con dove abiti tu. Avanti Robe. Fa Roberto, no, non c'entra niente. Io non sto parlando di te, tu sei una bassa valle, hai sicuramente difficoltà, avrai altre zone favorevoli, ma lì sicuramente no, ma lui è vicino a me e non sente Ausili, in Baltano a me. Allora, ieri stavo parlando con Claudio Di Muro, mi ha detto gli unici che ascoltano Ausili siamo io, tu e Fabrizio qualche volta, tutti gli altri non ascoltano nessuno, oggi c'ho il QRM alto per quello che io non ascolto, probabilmente lui non so cosa ha fatto, perché dice ci ascolta a tutti, ascolta a me, a te e a Fabrizio di Sassari, e bu, tutti gli altri nessuno ascolta, però adesso mi hanno chiamato, devo mollare io, dai, ci sentiamo magari o più tardi o domani, ciao ciao a tutti. Ciao Roberto, io lo so che ascolta solo a noi, ma io sto parlando di te che non lo sentivi. Se c'è il QRM alto va bene. Avanti Giulio, avanti. Ok, ciao Robe, ciao. Alle prossime. Magari può darsi anche che sentano Antonello Pompunio, essendo lui anche lui in altura, può darsi che lui riesca ad arrivare lì e che riesca a sentire, non lo so. Comunque, non è così importante. Pazienza, se ci si arriva va bene, se non ci si arriva pazienza, non è la fine del mondo. Avanti qua. No, beh, non è per quello che a volte chiamano per un controllo, per salutare e fare, insomma. E se uno non risponde brutto a me, a volte mi chiama Daniel D'Auristano, ed è l'unico che sente da Sassari, non c'è altro nessuno. Capito? Quindi noi facciamo spesso delle prove, lui mi arriva a Santiago 7, a me D'Auristano, fate il conto. Io arrivo a Santiago quasi 9, 8 abbondante. Così come sono adesso, senza K e senza Roger. Quindi, no, Antonello non ci arriva, no, abbiamo già fatto le prove, non arrivi a Lugo. Ok, vabbè. Vuol dire molto, la posizione vuol dire molto, e non c'è niente da fare. Se uno non ha la posizione buona, no, non è questione né di antenne e tanto meno del watt. Se uno ha la posizione buona, il discorso è spiegabile. Hai visto quello di Usilo, quello ci arriva tranquillamente. Perché? Perché ha la posizione buona, è un grido a 600 metri sopra il livello del mare, Usilo, più o meno. Per cui ci arriva sì, ce lo credo che ci arriva. Mentre qua da me arriva, stiamo arrivando a Santiago sì poco fa, non è che era questo grande segnale, però per dire no. E magari arrivo a Fieri che è a 60 km da lui, e purtroppo è così. Va bene, va bene. Allora, controllato hai quel collegamento del microfono qua, se corrisponde, se è quello. Sì, sì, già è quello, però devo disaldarlo bene, farlo bene, perché è tutto veramente fatto, non ti dico come, sembra fatto a coso, a pennello. Domani mattina mi metto, lo faccio, io ne avevo voglia, anche perché mi stavo facendo i capelli, la barba, avevo altre cosette da fare, quindi l'ho lasciato, però ho visto che quello lì, da quello che mi hai mandato tu, è quello lì, non c'è problema. È registrato? Ok, vabbè, speriamo che tu riesca a sistemarlo bene, così, se no, pazienza, cosa vuoi dire? Avanti, chi era il break? Avanti il break? Buonasera. Tutto quanto botto male. Cioè, ma tu sì, non si è capito nulla, nemmeno una parola. Stai uscendo malissimo. La radio tutta ribombante, tutta piena di pasticci. Francesco, tu sì. Peggio che mai, tutto innescato, sì, no? Sistema tutto, dai, sistema tutto. Dopo rientra. Avanti, qua. No, Francia, io non ho capito la massa di quello che hai detto. Se tutto inneschi e poc'anzi è tutto bu, sembrava in banda laterale, non lo so. Poi c'è un buonasera, mi sembra Luca, avanti. Ciao Claudio, ciao Giulio, dai. E l'altro lo sentivo malissimo pure io. Dai, sono entrato a salutare, perché ho visto, sono qua in ascolto, dai, ne prendo dopo. Ok Luca, ciao. Ben ascoltato, siamo qua, dai. Disimpegnati da quello che devi fare e entra in frequenza con noi, e così facciamo quattro chiacchiere. E vabbè, sì, in effetti era così, stavo facendo malissimo. Ma poc'anzi, quando stavo parlando con Roberto, stavo facendo bene, si vede che ha combinato un pasticcio. Avanti oggi, non ci sei? Non lo sento più, Cla, non lo sento più. Beh, neanche io, non si può entrare così. Per farsi ascoltare bisogna uscire bene, io non ho capito un accidente, lo saluto a Francesco ma non ho capito niente, non è modulazione, è proprio incomprensibile totale. Ciao Lu, buonasera, ben ascoltato. Tutto qua, vabbè, comunque, è così. Magari ha cambiato radio probabilmente, o microfono, e allora adesso magari ci sta lavorando per sistemare il tutto. Vedremo un po' se ritorna con una radio comprensibile, perché era messo male, ma male è male che più male non si può. Va bene, dai, comunque. Andate, io ho appena acceso 5 minuti fa, non è da molto, per cui non lo so, non ho sentito nessun altro su questo canale, mi era sembrato silenzioso, ho fatto un attimo d'ascolto quando c'era Roberto, ma poi ho visto che non è entrato altro nessuno, allora sono entrato io a salutare a Roberto, tutto lì. E vabbè, dai, comunque, le giornate stanno allungando, hai visto, alle 6 ancora luce, sì, un quarto addirittura ancora luce. Sì, ho visto, è stato a far buio alle 6 e mezza. Va bene, è meglio così, dai, abbiamo un pochino più di spazio, già va bene. Beh sì, almeno quello, un po' di luce in più, perché mamma mia, quanto è brutto l'inverno, per carità, mai mi è piaciuto, mai. E io penso che tante persone lo stesso non sono contente quando arriva l'inverno. Oh, tanti altri dicono, oh, sto meglio l'inverno perché in estate è troppo caldo. Se è troppo caldo, va bene. Io sto meglio in estate, poi. Oh, la primavera poi naturalmente è sostituibile quando ci sono le belle giornate a primavera, secondo me addirittura è superiore sia all'estate che all'inverno, così almeno non si soffre né caldo né freddo e si rimane ad una temperatura normale, 20-25 gradi, dai, che sarebbe quella ideale, 27 anche, perché no? Va bene, avanti qua. Sei tutto a fischi, è tutto impastato. Ma come mai? Poco fa stavi uscendo bene quando stavi parlando con Roberto e adesso sei tutto messo male con questo microfono. Ah, Francesco. Ma è bruttissimo, è pieno di inneschi e poi la radio anche nasina e cupa, insomma non va bene, assolutamente. Si metti a posto, dai, dopo entra. Sì, è così qua, d'altronde. Oh, siamo vicino via alla primavera, non è che ci manca molto, no? La primavera mi sembra che arriva il 21 marzo, se ricordo bene, sicché è solo questione di un mesetto più o meno. E fra un mesetto siamo in primavera. Vabbè, non sarà una grande primavera perché inizialmente freddo ne fa lo stesso, però si incomincia a respirare. Avanti qua. Spero di sì. Spero che inizi il tempo bello. Fra un po' penso che, insomma, il prossimo mese ancora dobbiamo un po' soffrire perché c'è un po' di perturbazione in arrivo, però sembra che già oggi ad esempio freddo non ne ha fatto, assolutamente, giornata un po' grigia, non c'era vento, abbastanza calma, ma freddo non ne ha fatto, non c'è freddo manco adesso perché io ero giù, ma freddo non ce n'è, tutto qua. Vabbè, Luca, non vuoi riprendere, stai facendo cosa? Uranio è in dissesto con questo microfono, vabbè, riprendi tu Giulio. Ok qua, beh certo, in effetti è così, oggi la giornata non era molto fredda, però diciamo che quando migliora ancora un po', ma adesso ho sentito stamattina il meteo che dovrebbe arrivare un po' di cosa, come si chiama, di scirocco, magari giovedì o venerdì, se ricordo male, lì in quella giornata non sarà tanto bella, però poi dice che arriva un po' di scirocco e dunque un po' di caldo. E va bene così, aspettiamo con ansia, io perlomeno aspetto con ansia, perché a me il freddo, la verità, cioè non è tanto il freddo perché mi copro e non è che lo soffro il freddo, però mi dà fastidio tutto quello che mi devo mettere addosso per proteggermi, non va bene, ecco, mi piace stare libero senza giubbotti, senza maglioni, eccetera, con una semplice maglia e basta, niente di più. Andare, dai, vediamo se entra qualcuno. C'è qualcuno che vuole entrare su questo canile? No, questo canile non è apprezzato da nessuno stasera, solo noi ci siamo qua. E vabbè, ma la gente è indaffarata, io praticamente era accesa, ho sollevato il volume adesso perché tra l'altro mi stavo facendo i capelli, la barba, e quindi ero, poi mi stavo guardando un po' di TV, tutto qua, però non ho sentito niente di che oggi. Ok, sì, beh certo. E vabbè, la TV anch'io ero davanti alla televisione e anche col tablet in mano, sì che davo uno sguardo a una cosa e uno sguardo all'altra. Poi ho fatto, sono già le 6:15, ho fatto esci, salgo per vedere se sento qualcuno. Ed eccomi qua. Poi stanotte si sta alle 9. Vediamo un po' che cosa ci combinano i bianconieri, perché mi sa che, oh yeah, vabbè comunque, vediamo bene, dai, niente di, non posso pretendere più di tanto. Abbiamo vinto per 9 anni di seguito, solo che la più importante è la competizione più importante, non l'abbiamo vinta da 20 anni a questa parte, anche oltre, per cui vediamo un po' cosa succede. Ieri il Barcellona ha fatto la fine, per carità. Messi ieri non c'era, o meglio c'era come numero di giocatori, aveva il numero 10, però lui non c'era proprio, assente, e ormai è finito, lo vedo da va, Messi non serve più, quasi 500 milioni ogni 4 anni guadagna, ma quelli 4 balli dai belli erano balloni, ma quando mai, non è possibile, ma comunque, avanti qua. Questo è un Porto, che squadra inglese cos'è? No, è portoghese. Oggi Ronaldo gioca in casa praticamente. È portoghese. Portogallo. Per cui oggi, ripeto, Ronaldo gioca in casa. Adesso vediamo che cosa lo combinano. Prima devi giocare, Ronaldo si è accasciato troppo secondo me. Pensavo ci fosse qualcosa in più di questo fenomeno, sinceramente parlando, però già la fa qualche partita buona, ma sono partite NBA proprio molto accasato. Non so, vabbè, comunque vada come vada. Beh, la Coppa Italia ancora è da vedere chi la vince. La Coppa delle Coppe l'abbiamo vinta, il campionato sicuramente ci può stare un secondo posto sicuramente, ma il campionato lo vince il Milan, lo vince l'Inter è fortissimo quest'anno, quindi però ci sta, insomma è meglio così, non è che può vincere sempre la Juventus, però se puntasse magari alla Coppa Italia, una bella partita, eliminare l'Atalanta, vince la Coppa Italia come ha vinto la Coppa delle Coppe e qualificarsi in finale per la Champions, insomma sarebbe un grande risultato anche quest'anno, a prescindere che il campionato non l'ha vinto, ma ti ripeto, ci sta sul campionato, per carità, però fammi vedere qualcosa in più da qualche altra parte. Infatti questo che ha rinnovato parecchio, soprattutto in fase tecnica, per cui sì, Pirlo sarà stato un grande giocatore, nessuno lo discute, e naturalmente non lo discuto nemmeno come allenatore, perché ancora alla prima esperienza, però ancora devo dire che la Juve non ha un gioco, non ha un gioco di squadra, io parlo di squadra, non ha un gioco di squadra, a me questo fraseggio che fanno sempre nella sua metà campo, parla da destra a sinistra, non fanno mai imbucate in verticale, in avanti. Ronaldo che ha cercato pochissimo, Morata che è completamente sparito, il primo periodo andava bene, poi si è ammalato, si aveva preso l'influenza, è scomparso anche lui, no, poi questa palla indietro sempre, palla da destra a sinistra, palla al centro e al portiere, ma quando mai una squadra come la Juve deve giocare in quel modo? La Juve deve mandare palloni in avanti, soprattutto a sfruttare la qualità supersonica di Ronaldo, perché se a Ronaldo gli dai i palloni, è chiaro che se gli dai 4-5 palloni in una partita non è che puoi pretendere che possa segnare più di tanto, ma prova a fornirlo con a sufficienza sempre e poi vedrai che prima o poi la butta dentro, perché ha sempre fatto così. Del resto ha fatto già 24 gol quest'anno tra Coppa e campionato, e non è poco. Messi ne ha fatto 20, Mbappé che è un grande giocatore, che al momento per me è il giocatore più forte che c'è al mondo, Mbappé, il giocatore della Paris Saint Germain, e ne ha fatto 21, a questo punto se non c'è il rifornimento in attacco è chiaro che la Juve rimarrà a quei livelli, no, del campionato non se ne parla più, non c'è preso proprio, non è possibile che possa battere sia il Milan che o l'Inter, anzi deve stare attenta anche a prendersi almeno il terzo posto per poter fare almeno la Coppa di Vega, per poter appunto andare poi in Champions, se no a questo punto non ce la fa nemmeno ad entrare in Champions, a meno che non vince la Coppa Campioni, ma sarà molto difficile comunque. Sicuramente sì, sicuramente sì. Se ci sono squadre fortissime nella Champions, non c'è niente da fare, sono le migliori squadre al mondo, non si discute su quello. I campionati sono campionati e si gioca, chi gioca al campionato a livello europeo, chi gioca a livello inglese, chi gioca a livello italiano, però sempre il campionato si parla. Quando si parla di Champions ci sono le migliori squadre al mondo, devono entrare in campo per vincere la Champions e guadagnare un sacco di soldi, tutto lì il discorso. E quest'anno lo vince il Paris Saint Germain sicuramente, tanto il Barcellona 5 gol non glieli fa a Parigi, quindi no, è già fuori dai giochi. La Juventus sicuramente arriva ai quarti di finale e poi come ogni anno è fuori dai giochi, perché inizia a incontrare le squadre forti come il Paris Saint Germain, Real Madrid e tutte le altre che ci sono, il Manchester United, Manchester City, tutte cose, e lì inizia a perdere colpi come ogni anno, perciò i giochi sono belli che fatti, caro Giulio. Avanti il break. Ok, francese. Ma diciamo che ti capisco, però non è che sia così bella come moderazione, come qualità di radio. Sì, si capisce, è comprensibile quello che vuoi, però non è proprio pulita, è la verità. Io perlomeno ti sento così. Mi stai arrivando Santiago, sì, mi stai arrivando il segnale, e la radio è quella che ti ho detto. Adesso sentiamo cosa ti dice Claudio, lui sicuramente ti sentirà un pochino più forte il segnale e poi avrà un ascolto forse anche migliore. Avanti Claudio. Sì, ciao Francia di nuovo. Sì, adesso un po' meglio, un po' benino, non è che sia al top. Ti posso dare 4 in radio, abbastanza comprensibile, non molto forte, ma abbastanza chiara. Te no, ti stai abbassando sempre di più, mettila come era prima. È una radio normale, una radio normalissima, di un microfono normale, ti ripeto, abbastanza chiara, bassina, 4 di, ti posso dare, di intensità radiofonica, non di più. Ok, hai detto che stai usando l'8001, scommetti che se metti il microfono su originale esce meglio di quello che stai usando adesso, probabilmente è così. Va bene, dai, l'8001 dovrebbe essere un bel baracchino, dovrebbe uscire bene, però come microfono probabilmente quello non gli si abbina molto bene. Va bene, dai, avanti Claudio. Sì, c'è un importante Santiago 9, qua, Santiago 9, non lo so, da te è più forte Francesco. Un attimo al break. A Giulio sicuramente da te lo copriva, perché qua è Santiago 9, avanti il break. Ok, sono giù, stavo... sono andato perché non sono più qui, ho cambiato il microfono. Bruno, tu sì. Ma diciamo che è sempre basso, però è più, ha più acuti rispetto al microfono che avevi prima, sicuramente questo mi piace di più, però è sempre bassa come modulazione, no, non è abbastanza alta, se uno ha un po' di QRM non lo so se riesce ad ascoltarti, perlomeno qui in lontananza dove sono io sarà così. Guarda che c'è Usilo, prova con lui, te lo mando avanti Bruno per Francesco in Usilo. Ok, grazie, adesso sono arrivato appena perché sto provando un plan profittato di quelli palmari, per la macchina. Non so, adesso non sto uscendo, era solo proprio per sapere come dovevo tagliare questo impiasto, perché non mi sentivamo bene, allora mi hanno pensato sul microfono oggi. Grazie, era solo amico di Usilo, io sono in macchina, avanti. Ok, ma sentivo anche un altro rumorino sotto, non so se ce l'avevi tu oppure se c'era qualcun altro che stava parlando insieme a te. Adesso te la mando avanti Usilo, avanti Francesco di Usilo, lo senti a Bruno da Sassari? Giulio, sta uscendo male Bruno. Tutto a fischi Bruno, tutto a neschi Bruno. Ascolta, adesso è abbastanza male. Tutto a neschi sì, tutto a fischi e a neschi. Qualcosa, un attimo che cambio il microfono, metto quello originale. Sì, lavorano in batticciardo, mentre È probabile, infatti mi sembrava strano, ma sembrava che ci fosse qualcun altro, magari con una portante un pochino più bassa, ed era quello invece, il microfono era quello che innescava. Va bene, Luca rientrato, sì, avanti. No, era giusto per dirti che stavo facendo male. No, non ho finito, sto riparando un computer, dai, ho tutto smontato, che devo controllare, non accende, non so perché, io sono qua in ascolto, se ce la faccio entro dopo. Sono anche un po' stanco, dai, e niente, non me ne ascolto. Va bene, d'accordo Luca, siamo qua comunque, dai. Vabbè, comunque, ripeto qua, lo sentivo anch'io quel fischietto, però non capivo se era il microfono suo o qualcun altro che stava modulando insieme a lui. Quindi io percepivo la modulazione in quel modo lì. Va bene, facciamo venire avanti Francesco, avanti usilo. Aspetta un secondo Giulio che mi assento un minuto. D'accordo qua, avanti Francesco usilo, sparito usilo. Bruno, hai cambiato il microfono? Questa specie di cigolio sotto che ti disturba, niente di cosa, di buono, insomma, ecco, sta andando male, non è il microfono che avevi prima, nel senso che prima, almeno se non altro, anche se era un po' barattoloso, però si capiva chiaro, senza nessun innesco, senza niente. Adesso quando ti fermi magari vedi un po', se c'è lo slider in quel microfono lì sarà quello, vorrà pulito, ci vorrà un po' di quel disossidante per contatti, non lo so. E così almeno va bene così. E poi l'antenna dovresti migliorare, metterti un'antenna più performante, perché l'antenna così piccolina non è che è un granché. Non è un granché, va bene, dai. Riprendi. Sì, beh, sicuramente sì, ma adesso stai facendo bene. In questo passaggio sei uscito bene dal radio. Se evidentemente l'hai cambiato e hai messo su originale. Sì, beh, certo, se era pieno di fischi evidentemente non funzionava bene. Lo so, purtroppo è così. Il baracchino cosa è quello? L'HB23 cosa è? No, questo baracchino me l'ha venduto un amico, è un Intec, e adesso mi ha piazzato, oggi mi ha piazzato un microfono perché mi dicevano che come radio non era molto forte, dunque ho comprato un palmare, uno di quelli col cursore per amplificare un po' la voce, e stamattina mi hanno messo lo spinotto, adesso lo stavo provando, ecco, vuol dire che c'è qualcosa che non va bene. Sì, infatti è sbagliato il collegamento, sicuramente il collegamento è sbagliato Bruno, se no non fischierebbe. Lo so, quello col cursore così, cosa può essere? Un F10 ad esempio, ti hanno dato un F10, perché sicuramente l'M300 non è di sicuro, l'M300 lo escludo, perché l'M300 dovrebbe andare molto, ma molto meglio, ma quello cos'è? Un F10 che ti hanno dato? Ah, boh, adesso io sono andato a vedere. Sono vicino all'orecchio, adesso mi fermo la piazzola e do un'occhiata, perché rispetto a questo microfono io l'ho piazzato, me l'hanno fatto stamattina e stasera io ho voluto provarlo per vedere, perché mi dicevano che la radio era bassa e dunque sono preamplificato, ma perché non abbiamo fatto le scariche o qualcosa. Comunque fra un attimo sono arrivato qui per fare i segni, mi parcheggio e poi eventualmente do un'occhiata anche a questo microfono. Magari ci sono vestiti messi male, poi non lo so, ma se si toccano. No, magari che non si toccano, però hanno sbagliato i cosi, dove va saldato il filo, perché alle volte esce, ma esce con certe cose, con certi disturbi. se non è messo collegato bene, non è chiaro che i pin sono stati sbagliati, sicuramente quello, se no dovrebbe uscire bene, anche se Intec, il microfono è in ordine, deve andare bene, perciò a meno che non ci sia la batteria proprio messa male, che non, no, che sia proprio scarica, allora può essere anche quello, se la batteria è scarica, cos'è uno di quei microfoni con una batteria da 9 volt oppure quelli da 1,5 come batteria? Non lo so, perché guarda, io sono fermato, ok, apri e guarda che batteria c'è dentro, se è quella da 9 volt oppure quella da 1,5 volt, se è uno di quelli da 1,5 volt, se sa, sono microfoni così, è proprio niente di particolare, quando incominciano ad essere da 9 volt dovrebbe andare bene come microfono, però sempre con i collegamenti fatti in maniera perfetta, in maniera giusta, se no siamo sempre da capo. Avanti, Ibru. Ma guarda, adesso lo sono fermato, adesso ho fatto la batteria. Questo microfono è ZG, è scritto M93, poi siccome si fa più con io, speriamo. È venuto questo, ora che deve essere. Avanti il break. Avanti il break, del 93 lo conosco, sì, ho capito. E dovrebbe essere un discreto microfono, non un buonissimo microfono, comunque un discreto microfono che dovrebbe funzionare bene. Avanti il break. Ok, ciao Francesco, allora salutoni, alle prossime, dai. Mettiti a posto bene quel microfono, quella radio. Adesso magari già sei uscito un po' discretamente, però poc'anzi eri proprio messo male veramente. Ripeto, sono sicuro che se mettevi il microfono normale suo, quello originale, usciva meglio, sarebbe uscito meglio del 920, cosa ha detto che era, boh, non mi ricordo bene. Va bene, dai, ciao, ci sentiamo. Avanti Bruno. Sono rientrato. Ok. Avanti Bruno, è entrato Claudio. Ecco, sì, è una batteria alle quadrate. Cos'è? Col coso giallo, Bruno? Col PTT giallo quello? È giallo, c'è scritto la batteria, vado con M93, ZG, così che va bene. No, però vedi, questo è esatto, allora mi hanno messo lo spinotto stamattina e dico perché mi sentivano un po' basso, sicuramente non avevo il microfono. No, ma sto dicendo come quel microfono è quadrato e c'ha il PTT dove schiaccia, è giallo quello lì. Sì, è quello, sì, c'è questo giallo sopra. No, ma non è un cattivo microfono, non è un cattivo microfono, è che magari è l'abbinamento, perché è un po' migliore di radio, però c'è questo innesco, quindi bisogna controllare perché c'è questo innesco, e la batteria scarica o c'è qualcosa che sta toccando, perché io so chi ce l'ha Gianni Lubrofretta, mi sembra, quel tipo di microfono, mi pare ce l'abbia anche Gianni Doppio Rum, quel tipo di microfono, escono benino, vanno bene. Quindi sicuramente devi vedere un po', devi rifartelo controllare o controllartelo tu, ma per eliminazione inizia a mettere la batteria nuova da 9 volt e poi vedi se te lo fa. Se non te lo fa vuol dire che la batteria è scarica, capito? Non ha la tensione giusta per poter alimentare il circuito di preamplificazione. Avanti Giulio. Infatti è quello che vi ho già detto io, come microfono non sarà una cima, però dovrebbe andare bene, perché il 93 dovrebbe essere un discreto microfono, o Bruno, ma se non è quello, se non è la batteria, allora c'è da rivedere i collegamenti che sono stati fatti. Perché alle volte sembra che funzioni, sembra che esca, in effetti esce il radio, però non esce in maniera pulita, vuol dire che c'è qualche filo in quel caso lì, a parte il discorso che la batteria ha ammesso che sia carica, no? E allora c'è qualche filo da scambiare tra i vari contatti, sicuramente così. Bruno, avanti. Non lo so, io non la sento qua. Senti, volevo segnare, sentire. Sì, domani compro la batteria, perché, ripeto, io onestamente ti dico la verità, non mi sono voluto mettere, quando era il momento già li facevo questi lavori, allora sinceramente a questo amico me l'ha dato, gli ho detto la fabbrica così gli ho comprato, se no sai metto lo tubo, io non lo metto a pasticciare, che se lo controllo già lo so fare, no? In altri tempi già si facevano questi lavori, abbiamo fatto anche quello e l'altro, però per non stare dunque non so neanche com'è, però vabbè, contro la batteria quindi, comunque questo che ho messo è, diciamo, un microfono originale, è un baracchino, è un giocattolo lì, un Inter, che è un giocattolino. Sì, sì, lo conosco Bruno e dopo 42 anni penso di conoscerli tutti i microfoni. È un, come ti ha detto Giulio, è un discreto microfono, funziona sui baracchini, però se lì sta facendo quel difetto, la base principale può essere o la batteria scarica oppure qualche filino che sta toccando, sta dando fastidio magari alla calza, capito, insomma, qualcosa c'è. Quindi metti la batteria e riprovalo, se no altrimenti riapri il connettore e controlli bene se i fili sono tutti isolati, se insomma c'è lo spazio necessario, perché basta un filino che ti crea problemi, capito? Tutto qua. Avanti Giulio. Sì, infatti, o al limite c'è da scambiare qualche filo, magari da un pin, vuole tolto, è messo in un altro e così via, insomma, alle volte funziona lo stesso, però non in maniera perfetta come dovrebbe essere. È da vedere, Bruno, e poi visto e considerato che c'è lo slider, non sarebbe male se gli metti un po' di disossidante per contatti elettronici, se fai una piccola apertura e chiusura poi dello slider dopo aver buttato dentro un po' di disossidante, perché può essere anche quello, insomma i motivi possono essere diversi, però diciamo che già si dovrebbe risolvere, dai, avanti Bruno. Sì, non male, se già adesso facciamo un evento, domani è un piatto, ripeto, non l'ho fatto io, dunque non so, già è una persona che l'ha fatta altre volte, è un vecchio cd che conosco da tutti che furono, lo trovo a consigli 40 anni, però perché allora ho comprato un'antenna ieri arrivata, l'ho portata a casa, una goma di quelli che hanno messo sul balcone e domani ci ho portato una piastra, una staffa perché quella che c'è non va bene, e poi vediamo se, perché io adesso sono a 2 sole, sono in macchina, poi ho fatto venire da casa perché non va a finire da casa, vediamo così se mi sentite meglio da casa tutti i giorni, però veramente devo fare la maniera, sarà tutto lungo e fare la stazione con la bicicletta e non ci penso più, e tutti i giocattolini del bongo per il gassoletto. Bruno, sì, d'accordo, quello sì, ma se con l'antennino, cioè con la boomerang a casa, dovresti, perlomeno io ti dovrei sentire bene, magari non so dove potresti arrivare, però diciamo se è messa in una posizione buona non ci sarebbe problema, perché c'è gente che ce l'ha la boomerang, uno di questi ad esempio è Gianni Lubrofetta, però lui si sa la posizione e arriva dappertutto, no? Non c'è problema. Per cui già va bene, dai. Se ti trovi una buona posizione quando sei a casa non dovresti avere nessun problema nel farti ascoltare, e tantomeno nell'ascoltare tu come ricezione. Va bene, già lo sai come si deve fare, dunque non c'è bisogno che te lo dica a nessuno. Avanti Claudio. Sì, cappa, e vabbè, Gianni c'era sopra il tetto, ecco, il faro, come un'antenna delle nostre. Lui se la mette nel poggiolo, deve cercare di mettere in una posizione dove riesce, che non sia chiusa. Capito, l'autostrada con sicuramente già arriva. Sicuramente già arrivi, non c'è problema. Io da casa tua ti sento, ecco, l'antennino dentro casa, non è che non ti sento, è Santiago 2 ti sento. Se c'è il QRM non ti sento più, quindi se ti sento con l'antenna della macchina dentro casa penso di sentirti bene. Con la boomerang fuori nel poggiolo, Bruno, non c'è problema, anche perché io per la posizione che ho vi vedo tutti, quindi non ho ostacoli dove il segnale non arriva, capito? Tutto qua, avanti, riprendi. io, soltanto sta portando, sta sbagliando. Sì, no, adesso io da una parte sono chiuso, perché comunque dove la metto io sono al secondo piano, devo fare l'altro quattro piani. Dunque sono da una parte, sono aperto verso la zona del mare, Platanona, Porto Torres, e dall'altra parte invece ho il monte, e lì che fa anche. Però allora sono andato meglio, perché figurati, io uso la Colibri, io da casa uso la Colibri appoggiata sul balcone all'interno, su tutto, perché all'esterno non possono essere, non voglio usare, ma potevo cappeggiare. E appoggio tra la sedia e la sedia lì, ma sicuramente le queste antenne sono anche ricariche stazionarie, perché io il carro non sono stato di altri, non posso dire con la verità, ho comprato anche voi, non sono nuovo, neanche non trovato le stazionarie ancora. E dunque non so, le stazionarie di questa macchina in questo momento, che sto usando quella antenna cavalettata, quella mini turbo, e poi la Colibri che uso a casa, che magari sarà già bruciando il baracchino, che sarà, quando pigio il tasto del microfono, mi va, mi torna indietro il lago dove si mettere, e si inchioda, per cui pensate sono stazionari, devo vedere, anche perché non avevo spezzone del cavo, esatto, un spezzone, un cavo da 20 cm, 30, invece l'altro giorno parlando con un amico mi ha detto di usare uno spezzone per fare l'attacco tra il nostro strumento,